Quanto vorrei fosse qui la bambina dagli occhi di sole, di luce lei saprebbe inondare il buio profondo che adesso nel cuore. Credeva nella fortuna la bambina dal volto di luna, credeva ai sogni tacciuti, al profumo dei fiori non ancora dischiusi. Sopra il suo viso color paradiso sbocciava il suo dolce sorriso. Poi piano piano mi dava la mano e insieme correvamo lontano a giocare agli indiani noi, solidali con loro ormai, perché in fondo tutti cowboy erano, come diceva lei, falsi eroi. Si ebbe fine, delle rose restaron le spine. Lascia il paese, gli amici e la compagna di giochi dei miei giorni felici. E fu la mia vita una corsa infinita, incontro un'ingannevole meta. Una carriera intrapresa e ben presto sfociata in un'irresistibile ascesa. Ma il denaro, il successo, il potere non scioglievano il gelo del cuore. Erano solo illusioni o d'inganni, semmai, o come avrebbe detto lei, falsi dèi. Dove lei, e se è felice o no, come ha vissuto gli anni suoi. Quello che so è che però non si è arresa mai e combatte anche.